avanti bello su, dimmi che c'è. Non piangere più adesso, dimmi perché. Che guardi, che c'è? Aringa go away! Che dice, frappè? Aringa go away! Ma o cos'è? Aringa go away! O cos'è? Aringa go away! Basta, provaci te! Va bene, ci proverò io. Dunque, quello che vuoi non è certo caffè, né cioccolata, biscotti, né tè. Ma allora, cos'è? Aringa go away! Ha detto Pepe? No, sì! Aringa go away! Ma o cos'è? Aringa go away! O cos'è? Aringa go away! Basta, ci rinuncio! Ah, ecco, meno male arriva tuo padre, così ci spiegherà cosa vuoi. Vai, Baccello, fallo entrare. Buongiorno, si accomodi. Buongiorno, guardi, io non so cos'è. Suo figlio vuole un non so che. Aringa go away? Sì, quello, o cos'è? Aringa go away? Aringa go away? Ma o cos'è? Cos'è? Aringa go away! Aringa che? Aringa go away! Sì, ma o cos'è? Aringa go away! O cos'è? Aringa go away! Ma certo! Come ho fatto a non pensarci prima? Baccello, dagli tre etti di Aringa go away! Ah, sì, sì, subito! Dunque, allora, sì, appunto, dunque, tre etti di... Come? Tre etti di Aringa go away? Aringa go away. O cos'è? Aringa go away. Aringa che? Aringa go away. Ah sì sì, ecco, Aringa bebè. Aringa go away. Ah no no, forse Aringa bebè. Aringa go away. No, allora forse sarà Aringa Aringa go away. Ah Aringa go away.